Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Ben ritrovate e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, il vostro appuntamento per l'appunto con la storia, che va in onda il sabato alle 14 sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM e invece il lunedì mattina disponibili in podcast sul nostro sito www.radiovanloon.info. È puntata di oggi in cui entriamo nel pieno del discorso pubblico attuale, nel senso che siamo nel nostro appuntamento annuale con la giornata della memoria e naturalmente di giornata della memoria, come ben sapete frequentando queste frequenze, noi ci occupiamo sempre. È un appuntamento che, pur con qualche elemento di discussione, insomma, quelle valutazioni da storici e da storiche, però è un appuntamento al quale teniamo veramente molto. Esatto, Frey, veramente stavo pensando anche che è il mio debutto nel 2019. Bene, ben trovata, mi avete lasciato un po' solo in questo inizio d'anno. Esatto, quindi perché non cominciare questo 2019 con la giornata della memoria? E ogni anno noi pensiamo molto a cosa fare, cosa non fare. Le celebrazioni, chiamiamole così, per la giornata della memoria sono sempre abbastanza cristallizzate sul campo di concentramento, sull'empatia giustamente delle vittime, nella divisione totale tra vittime e carnefici. Abbiamo pensato di rivolgerci non alle vittime, non ai carnefici, ma agli spettatori. Guarda, mi verrebbe da dire che tutto questo ha un dei rimandi con il discorso del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha fatto, ai noi tocca dirlo, un bel discorso da questo punto di vista. No, però effettivamente il discorso sull'indifferenza, su chi stava attorno, è molto interessante. Esatto, perché lo vedremo tra un po' con la storica che abbiamo invitato, che è Valeria Galimi, che ha scritto questo bellissimo libro che si chiama appunto Sotto gli occhi di tutti. Vedremo come l'opinione pubblica italiana, l'opinione popolare nel 38 reagisce alle leggi razziali. Abbiamo appena finito il 2018, che sono stati gli 80 anni dalle leggi razziali. E poi riflettiamo anche su un'altra cosa, cioè perché noi abbiamo detto che la celebrazione in questo momento della giornata della memoria è necessaria, ma è anche un po' cristallizzata. La memoria pubblica però di questo della Shoah non può, può racchiudersi in alcune fasi, non è sempre come l'abbiamo conosciuta noi. Anche la Valeria Galimi ce lo dirà, ma noi ve lo diciamo più schematicamente. La memoria della Shoah può avere tre grandi fasi in Europa: dal 45 al 49, quando c'è una grande attenzione per quello che è successo, per le testimonianze, c'è un grande affare appunto per le testimonianze. Dagli anni 50 c'è una sostanziale scomparsa e dalla cronaca e dalla storia dei testimoni per varie cause. Tra queste cause c'è sicuramente il cambio di clima degli anni 50 e la guerra fredda, per il quale è molto più importante l'anticomunismo che ricordare quanto abbia fatto male il nazismo nel cuore dell'Europa. C'è una terza fase che abbiamo una data precisa, il 61, con il processo Eichmann, ricordato nella banalità del male da Anna Arendt, in cui si ricomincia a parlare di vittime, carnefici e ancora non proprio spettatori, ma cominciamo a ragionare su questo piano. E poi ci sarà la storiografia, gli storici che con le fonti faranno il resto fino ad arrivare agli anni 90. Il caso dell'Italia è un po' diverso, ma poi ce ne parlerà Valeria Galimi, che abbiamo intervistato. Allora, ci ascoltiamo un pezzo musicale e poi entriamo a chiacchierare con Valeria Galimi. Thank you. bentornati sulle frequenze di Radio Città Fucigo. Questo è Vallun ed è la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Come già annunciato nell'introduzione, abbiamo con noi una gradita ospite che è Valeria Galimi, ricercatrice di storia contemporanea all'Università di Milano. Valeria Galimi ha scritto nel 2018, quindi ancora fresco di stampa, questo bel libro che si chiama Sotto gli occhi di tutti, la società italiana e le persecuzioni contro gli ebrei, edito da Lemonnier. È un libro interessante, come abbiamo già detto, un libro importante perché, questo si capisce dal titolo, è un approfondimento, una ricerca importante sulla società italiana, su quello che pensa, ecco, per dirlo in modo davvero semplicistico, cosa pensa la società italiana delle leggi razziali, che diciamo che questa è la domanda che ogni storico, ogni storica, quando legge o quando studia questo periodo, è la cosa che si chiede, e probabilmente, ora ci dirà Valeria, anche la cosa più difficile da sapere, qual è l'opinione pubblica. E il 38 rappresenta un caposaldo, a parte nel ventennio del regime fascista. Nel 38 ci sono le leggi razziali. Noi da storici, ecco Valeria, ti voglio chiedere così a bruciapelo, perché la domanda è da $1 milione, ma cerchiamo di risponderci, di riflettere su questa cosa. Tu hai intitolato il libro Sotto gli occhi di tutti. Ecco, come si fa a 80 anni di distanza ad avere fonti, a studiare se l'opinione pubblica, se gli italiani avevano preso bene, male, come avevano preso, qual è l'opinione appunto sulle leggi razziali? Allora, prima di tutto grazie di questo invito appunto a parlare con voi di questo libro. Nel frattempo mi sono trasferita all'Università di Firenze, quindi vi parlo da Firenze. E la domanda è molto complessa e veramente da $1 milione, nel senso che non si riesce a dare una risposta univoca, e anche il mio libro non ha la pretesa di dare una risposta esaustiva a come hanno reagito gli italiani durante, diciamo, la promulgazione delle leggi razziali, durante poi il periodo della Repubblica Sociale Italiana e la Repubblica di Salò, e anche nel dopoguerra, perché diciamo, abbraccia un periodo lungo, no, di analisi. In realtà il libro si propone più modestamente di fare delle incursioni, no, rispetto ad alcune vicende, per vedere proprio più da vicino, attraverso, come dire, da una parte alcune fonti che io analizzo e poi la discussione, una riflessione, delle interpretazioni che propongo, cosa è successo in un determinato periodo o in un determinato, rispetto a una determinata questione, un determinato tema. Vi spiego meglio. Ad esempio, il 1938 è un momento, lo dicevi, è importante perché vengono promulgate le leggi razziali. Queste leggi non arrivano all'improvviso, non è che l'Italia si scopre improvvisamente antisemita e il governo di Mussolini dall'oggi a domani decide di abbracciare una politica razziale, si dovrebbe dire più correttamente razzista. C'è una lunga preparazione già dal 1936 con la costruzione dell'impero, dal 1937 c'è una propaganda di stampa che si costruisce, e quindi l'opinione pubblica in qualche modo è già abituata al fatto che in Italia esista un problema costituito dagli ebrei, perché gli italiani, lo ricordiamo, siamo in un contesto di dittatura, di stampa e di media, no, come li chiamiamo oggi, controllati e sottoposti a censura, sono appunto sottoposti a questa propaganda martellante che mostra che questa piccola comunità ebraica, questa comunità ebraica che rispetto anche agli altri paesi europei rappresenta diciamo, gli ebrei rappresentano l'1 per 1000 della popolazione italiana, molto ben integrati, gli ebrei italiani hanno partecipato al Risorgimento, alla Prima Guerra Mondiale, come dice Sarfatti, lo storico Sarfatti, al momento durante il fascismo erano fascisti e antifascisti esattamente come il resto degli italiani. Si trovano appunto sotto riflettori come accusate di costituire un problema, e quindi queste leggi che si intitolano, che hanno come denominazione provvedimenti per la difesa della razza italiana, arrivano nell'autunno del 1938, e un po' per richiamare il titolo del mio libro, in qualche modo gli italiani, queste questioni sono sotto gli occhi di tutti, sulla bocca di tutti, no? E c'è una frase di una nota di polizia che io riprendo e che cito, e che quindi sostanzialmente le reazioni a questo allontanamento dalla scuola, dai posti di lavoro, dalle professioni, che in qualche modo costituisce questa prima fase della normativa, riguarda molte persone. Quello che ho provato a fare, diciamo, con il mio libro è quello di inserirmi in un dibattito ormai decennale su come hanno reagito, no, gli italiani, provare a misurare l'opinione. Mm-hmm. Si parla poco di opinione, diciamo, più correttamente, ad esempio, lo storico Paul Cornell dice opinione popolare, non opinione pubblica, perché non è libera l'opinione sotto il fascismo. Però per molto tempo si è considerato il 38 come un momento di collamento tra fascismo e italiani, no? Un momento in cui per la prima volta c'è inizia la disaffezione degli italiani, sì, una rottura del consenso. D'altra parte però... Ed è vera questa cosa? Cioè, tu hai riscontrato che questa cosa può essere vera in qualche modo? Secondo me no, cioè, no, dalle analisi delle fonti, io ho usato tradizionalmente quelle, le cosiddette fonti di spirito pubblico, no? Sono le note di polizia, sì, che comunque, se si leggono bene, sono ampie. Quando si va all'archivio centrale dello Stato ci sono migliaia di fogli, di note, diciamo, informatori che registrano gli umori della popolazione, proprio perché il regime fascista era una società sotto controllo, e quindi sostanzialmente quelle note ci raccontano un po' gli umori della popolazione, e da questa analisi di queste note, che poi vengono trasmesse alla questura, vengono trasmesse alla prefettura e poi vengono passate, e quindi in questa selezione si perdono molte delle informazioni. Se invece si va a monte e ci si cala in queste numerosissime pagine, in realtà il quadro viene molto ricco, articolato rispetto ai settori sociali. Sono note che vengono prese ai bar, ai mercati, nei salotti, no? C'è una restituzione molto articolata di questa società italiana. Non sono solo le uniche fonti, però, diciamo, parlo di queste perché restituiscono un quadro molto variegato, e si vede che ci sono delle reazioni, ma sono sostanzialmente c'è una presa d'atto, diciamo, della popolazione italiana nel 1938, e quindi le poche voci dissonanti sono le voci di persone che sono magari strettamente coinvolte. Se c'è un lavoratore il cui padrone di lavoro è ebreo, e quindi c'è un problema di chi appartiene alla ditta, qualche collega degli ordini professionali, cioè quando si nota che le reazioni ci sono se la cosa riguarda da vicino, un po' è qualcosa di riscontrabile. Anche la sociologia, cioè i sociologi dicono che il razzismo e diciamo le opinioni e atteggiamenti di razzismo mutano se poi le persone si conoscono. Ecco, quindi proprio il tema della vicinanza. E poi anche ad esempio in casi, in queste note si dice, di fronte a dei suicidi, a delle queste vicende tragiche, però queste questioni sviluppano un po' il pietismo, no? Delle reazioni di preoccupazione, di empatia, che bisogna, e quindi bisogna stare attenti a dare conto. Quello che invece, noi, scusami, oggi chiameremo buonismo. Esattamente. Sì, questa questione del pietismo sarà più forte poi dopo il 43. Certo. Allora, prima di passare a una seconda domanda, ci ascoltiamo un piccolo pezzo musicale e torniamo fra poco. Thank you. Allora, siete sempre su Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e stiamo chiacchierando, facendo una bella discussione con Valeria Galimi, che è autrice di Sotto gli occhi di tutti, la società italiana alle persecuzioni contro gli ebrei, che è l'autrice, la storica che abbiamo invitato per raccontare questa giornata della memoria di quest'anno. Sì, infatti noi abbiamo parlato fino adesso abbiamo cercato di dare degli sprazzi, ecco, per quello che tu fai nel libro molto bene, gli sprazzi sulle opinioni che avevano gli italiani rispetto alle leggi razziali. E invece adesso ti volevo chiedere di fare un balzo, siccome siamo nel giorno della memoria non possiamo non parlare appunto della memoria pubblica, e ti chiedevo, noi veramente nell'introduzione abbiamo già fatto un breve accenno alla costruzione della memoria in Europa e in Italia, perché no, la costruzione della memoria è una costruzione appunto molto lenta. Quello che noi vediamo adesso, che il giorno della memoria, è una costruzione recente, ma ci sono state varie tappe che hanno portato a questo, e ti volevo chiedere infatti se c'è una specificità italiana rispetto alla costruzione della memoria pubblica della Shoah e del genocidio e delle leggi razziali. C'è certamente una specificità, nel senso che l'Italia arriva con ritardo a questa elaborazione della memoria delle vicende appunto che riguardano la Shoah. Appunto in Italia e in Europa, e la specificità è stata che per lungo tempo l'idea è stata che diciamo quel mito del bravo italiano, no? Che l'Italia, gli italiani durante la seconda fase, quella che appunto si apre con l'armistizio e l'autunno del 43 fino alla liberazione, quando c'è stato proprio l'applicazione del piano di soluzione finale all'Italia e ci sono state le deportazioni, gli arresti degli ebrei, come appunto degli oppositori politici, deportati politici e così via, gli italiani si hanno mostrato come dire generosità, soccorso, aiuto, e quindi diciamo a livello internazionale il tema degli italiani brava gente è stato prevalente. Quindi il discorso pubblico per lungo tempo si è costruito rispetto a questa idea. E nel mio libro, come tu accennavi, c'è questa lunga periodizzazione, e io faccio uno studio proprio sul processo Eichmann del 1961. Il processo Eichmann è importante proprio per la costruzione e la cristallizzazione di questo mito, perché sostanzialmente è la prima volta che ci sono dei testimoni che raccontano, è un po' la memoria pubblica internazionale si muove rispetto a quella vicenda, e lì appunto la testimone italiana viene anche che è una diciamo un'ebrea che in quel momento vive in Israele, ma che aveva vissuto le persecuzioni, aveva perso una parte della famiglia in Italia, e racconta che lei sì è stata aiutata dagli italiani, ma ci sono stati anche italiani che hanno denunciato. Però dalla stampa viene in qualche modo passa questo messaggio che gli italiani sostanzialmente sono tutti stati salvatori, e questo discorso che si cristallizza appunto a partire dagli anni 60 è prevalente fino sostanzialmente agli anni 90, direi, quando anche un po' il discorso pubblico intreccia anche gli studi, la storiografia, pensiamo a quella importante mostra della menzogna della razza, no? Che parte proprio da questo gruppo di giovani studiosi bolognesi, che apre un po' questo squarcio appunto anche nel discorso pubblico delle responsabilità del fascismo italiano. Si arriva appunto quindi lentamente a questo giorno della memoria anche in Italia, con l'affermazione del 2001, con a partire da questo momento, diciamo, essendo una ricorrenza civile, c'è una mobilitazione anche di politiche della memoria in questo senso. Ora noi abbiamo poco tempo e non possiamo sviluppare, ma sono dei temi molto importanti perché investono anche il nostro presente, la rappresentazione anche delle responsabilità del nostro passato. Esatto. E per quanto mi riguarda, il mio atteggiamento, insomma le mie opinioni rispetto al giorno della memoria è un po' ambivalente, perché da una parte certamente ha aperto uno spazio di discussione, di sensibilizzazione pubblica rispetto a dei temi che riguardano appunto il nostro passato nazionale, ma che riguardano anche il nostro presente, le nostre idee di cittadinanza, appunto la questione dei nostri valori democratici sostanzialmente. Dall'altra però si rischia, attraverso questa forse una riproposizione stanca, no, di momenti un po' celebrativi, di fare qualcosa di rituale, ma che senza tanti spettacoli teatrali, tante immagini di campi di concentramento, tanti film alla televisione, che però vanno a saturare un immaginario che è un immaginario un po' lontano da noi. Cioè io penso sempre, sottolineo molto il fatto che anche quando lavoro con i miei studenti, che il nostro immaginario, quando si pensa alla Shoah, si pensa soprattutto alla rampa di Auschwitz, cioè qualcosa di lontano. In realtà la Shoah, diciamo, lo stigma degli ebrei, partecipa a un progetto, diciamo, politico, ideologico, che ha un lungo cammino, no? Che parte appunto dall'affermazione del fascismo, del nazismo, del totalitarismo, della dittatura. Cioè, quindi penso che il giorno della memoria in realtà, perlomeno soprattutto per le nuove generazioni, ma e anche generazioni che sono figlie di cosiddetti figli di seconda, terza generazione di immigrati, non hanno lo stesso background, non hanno la stessa formazione anche di riferimenti, a partire dai nonni in famiglia partigiani o non partigiani, no, in questo senso, certo. C'è da costruire nel senso, sono cose che mi suonano molto da docente di scuola. Vedo quanto ci sia una certa un'idea anche da ragazzi che, come dicevi, non hanno quel tipo di background. Oramai però si è sviluppato un immaginario che è quello sostanzialmente della televisione e quello della proposta didattica che purtroppo molto spesso noi docenti facciamo, che è sostanzialmente la riproposizione di certe immagini, certi filmati, certi racconti e certe forme della narrazione della memoria della Shoah, per cui bisognerebbe fare un lavoro molto importante sia dal punto di vista della storicizzazione, cioè di una contestualizzazione del fenomeno, che poi dal punto di vista del racconto di una memoria che ci può insegnare qualcosa. Sono assolutamente d'accordo, perché proprio anche noi in qualche modo, docenti, ricercatori, educatori, dobbiamo in qualche modo riflettere su quali siano le strategie, diciamo, di comunicazione, di trasmissione didattica più efficaci, perché per quanto mi riguarda, essendo una storica, a me sembra che molte volte in questi incontri, specialmente anche, non so, promosse da benemeriti amministrazioni pubbliche, no? Però che in qualche modo si rischi di perdere la contestualizzazione storica e si faccia più appello alla storia individuale, alla testimonianza, che pure è importante, no? All'emotività, all'empatia di una storia, di una vicenda tragica, ma noi dobbiamo in qualche modo trasmettere anche, storicizzare gli eventi, perché altrimenti rimangono un po' fine a se stessi, no? Cioè il momento e soprattutto mi permetto di dire che purtroppo non funzionano, ecco. No. Esattamente. Come qui. Esatto. Senti Valeria, purtroppo noi siamo arrivati veramente al limite del nostro spazio. Ti ringraziamo tanto per averci raccontato il tuo libro e averci proposto una bella chiave di lettura da utilizzare in questa giornata della memoria. Esatto, io ringrazio voi, è stato molto piacevole. Alla prossima. Grazie. Bene, ringraziamo ancora Valeria Galimi per essere stata in nostra compagnia, per aver raccontato la sua riflessione sulla giornata della memoria, su quello che è stata la partecipazione, la non partecipazione, il silenzio degli italiani durante il rastrellamento degli ebrei e degli altri oppositori politici, le minoranze colpite durante il regime fascista e sotto l'occupazione nazista. Comunque vi consigliamo il libro, anche per che è molto interessante, vi ricordiamo, si chiama Sotto gli occhi di tutti, la società italiana e le persecuzioni contro gli ebrei, edito da Le Monnier nel 2018. Qualche evento? Sì, qualche evento abbiamo, purtroppo speriamo che abbiate fatto in tempo a visitare la bellissima mostra che era stata allestita al quartiere Savena dalla nostra Olga e con qualche vecchia conoscenza del caso S. Vallun. Comunque, chissà che non la riproponiamo in seguito, ma Vallun sarà aggiornatissimo su questo. Assolutamente. Poi due appuntamenti sempre per due mostre. Allora, al MEB, al Museo Ebraico di Bologna in via Valdonica, inaugura proprio stasera alle 18 la mostra su 1938. Esatto, poi a Reggio Emilia è stata allestita un'altra mostra, su questo dobbiamo informarci un po' meglio, magari ve lo segnaliamo sulla nostra pagina Facebook, una mostra dedicata ad Arpaz, alla storia di Arpad Weiss, scusate, lo storico allenatore del Bologna che fu vittima delle persecuzioni razziali. Morì ad Auschwitz, infatti la mostra si chiama Dai campi di calcio ai campi di sterminio. Esatto. Non è una mostra documentaria, ma è una mostra anche con graphic novel. Sì, esatto, perché ne hanno fatto un libro, ne hanno fatto un fumetto su questo personaggio molto interessante. Il comune aveva provato l'anno scorso, se non sbaglio, a dedicargli una parte dello stadio. La cittadinanza, con grande piacere, non ha voluto togliere il nome di Curva di San Luca, ma anziché dedicarla ad Arpad Weiss. Bene, complimenti alla città di Bologna. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Olga. Ciao, alla settimana prossima.